Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, l'ultimo appuntamento per questa serie di incontri con i grandi protagonisti del cinema, della musica, della cultura. La voce in scena di oggi è quella di un attore, regista e musicista italiano. Nasce in Basilicata e si trasferisce a Roma per studiare matematica, ma poi si iscrive a una scuola di recitazione. Esordisce in teatro nel 1985, al cinema invece compare per la prima volta ne Il male oscuro di Mario Monicelli, nell'89. Prosegue la carriera recitando nella serie televisiva Classe di Ferro, quindi tra gli altri con Paolo Virzì, Giovanni Veronesi e più volte Leonardo Pieraccioni. Nel 2005 vince il premio della critica al Festival Teatro Canzone Giorgio Gaber. Debutta come regista nel film Basilicata Coast to Coast. Nel 2011 vince il David di Donatello nella categoria Miglior Regista Esordiente. Nel 2012 affianca Gianni Morandi nella conduzione della 62esima edizione del Festival di Sanremo. Quest'estate è in scena con un nuovo spettacolo di teatro canzone. Lui è Rocco Papaleo. Propongo uno spettacolo di intrattenimento con un respiro musicale, un po' nel range, diciamo, delle cose che vado facendo da una ventina d'anni, percorso parallelo a tutta la mia questione, diciamo, di attore, di teatro, di cinema, televisione e quant'altro. Diciamo che è un incontro che propongo al pubblico con la mia parte più quella che più mi va di mettere in mostra, diciamo, mi prendo questa libertà di esibire, diciamo, questo discorso a metà tra il teatro e la canzone, il teatro canzone appunto, e così, poi non posso giudicare io, però una cosa che un po', penso sia un po' il mio meglio. Mi ha molto incuriosito però il titolo, Una piccola impresa meridionale, sì. A cosa si riferisce? Ma guarda, è presto detto, perché siamo un gruppo di musicatori tutti meridionali, e il senso di questo nostro, di questo titolo è proprio che siamo noi stessi una piccola impresa, nell'accezione proprio dell'imprenditoria, un'impresa di entertainment, appunto, come ti dicevo prima, e con un respiro meridionale, però come un altro meridione, no? Siamo lì a rappresentare quel popolo meridionale che il meridione l'ha lasciato, e se l'è lasciato alle spalle, diciamo, geograficamente, proprio per cercare, è emigrato in un certo senso, in cerca di esprimersi, per cercare di esprimersi, e che però attinge molto al meridione nel momento in cui deve ispirarsi. Quindi se ne ricava anche una visione un po' più distaccata, più distante, ma non per questo meno precisa per quello che riguarda alcune atmosfere e alcuni modi di essere. Detto questo, diciamo, è anche un po' un piccolo gioco scaramantico, perché c'è un film che stiamo per cominciare a girare che si intitola appunto Una piccola impresa meridionale, e siccome in passato mi è capitato di fare questo passaggio dal teatro al cinema con questo film, non so se avevi beccato quel film Basilicata Coast to Coast. Mi è capitato di intravederlo, visto che ogni tanto se n'è parlato di quel film lì. Vabbè, insomma, per dire che veniva da uno spettacolo del genere, no? Di teatro canzone, dove si prospettava un po' questo viaggio a piedi da una costa all'altra della Basilicata, però era giusto uno spunto che poi è diventato lo spunto anche per il film. Buongiorno, sono Dio e vorrei lanciare un appello per tutta l'umanità. Signori e signore, trovatevi una passione e andategli appresso fino in fondo. Vabbè, non so credibile come Dio, con sto accento meridionale, che non si capisce nemmeno di che meridione è. E allora lo dico. Io sono nato in Basilicata. Sì, la Basilicata esiste. Scaramanticamente ho ripetuto questo tipo di legame, no, tra il teatro canzone e il cinema, proprio perché è il legame che mi interessa maggiormente sviscerare, e nelle cose che scriviamo insieme con Walter Lupo, che è il mio collaboratore sceneggiatore di sempre. E quindi scaramanticamente avevamo prima imbastito la storia per il film e abbiamo messo lo stesso titolo anche per questo nuovo spettacolo di teatro canzone, perché in fondo è un titolo anche un po' contenitore, no? Quindi ci stava bene anche per quest'altro progetto di teatro canzone. Ha fatto un percorso al contrario, dal soggetto e la sceneggiatura del film è andata a finire nello spettacolo. Non è molto connesso il film con lo spettacolo che proponiamo, però l'atmosfera sì, che è sempre quella meridionale, un po' di rimando in un certo senso. Esiste, è un po' come il concetto di Dio, ci credi o non ci credi? Io credo nella Basilicata, una grande Basilicata, una Basilicata che estende i suoi confini fino a Foggia, fino a Salerno, una Basilicata grandi pascoli, perché la Basilicata ha bisogno di orologi, ha bisogno di mucche, ha bisogno di cioccolato, altrimenti non sarà mai la Svizzera del Sud, dice la Basilicata. La Basilicata è stanca delle sue incongruenze, la Basilicata si sta chiedendo, perché la Basilicata è una regione riflessiva, una regione che ragiona, la Basilicata si sta chiedendo ma come mai in una regione dove la DC è sempre stata oltre il 40% non c'è la mafia, ma dateci la nostra fetta di mafia! Hai scritto una cosa molto bella e molto intensa sul teatro. Chiedetevi cosa vuole un attore dal teatro, vuole che quando prende una pistola e spara i vostri cuori abbiano un sussulto. Beh, perché comunque dal mio punto di vista l'esperienza del teatro, il live cosiddetto, no? E quindi con quel rapporto diretto fisico che c'è tra chi si esibisce e chi assiste all'esibizione è un po' irripetibile per quello che riguarda proprio il mio punto di vista, e quindi c'è quella dimensione lì. Come posso dire, il cinema sembra molto più vero del teatro perché ci credi un po' di più, perché paradossalmente sei lì nella sala o in televisione, quello che è, e assisti a una cosa che ti sembra vera, e il teatro invece sembra più finto perché comunque entri in quella, sei lì in un luogo fisico, c'è un palcoscenico e quindi è una dimensione più artificiale. E invece paradossalmente è più forte, più vero il teatro perché è meno mediato, cioè quello che accade sulla scena è quello che sta accadendo realmente senza artifici e senza niente. Quindi se veramente uno osserva bene la rappresentazione teatrale, dovrebbe scoprire una maggiore autenticità, e comunque con maggiore autenticità ti devi porre al cospetto del pubblico. E quindi ecco perché il gesto, l'emozione teatrale è più unica, più un film già se lo vedi due volte, no? Se vedi l'artificio, è stremolestante, che anche, voglio dire, il cinema comunque è interessantissimo, e tant'è che mi sto mettendo per fare un altro film, però parlo proprio di attore, come attore mi interessa molto di più esibirmi a teatro. Senti, ma non... E che cosa vuoi che faccia? Ma canta quell'altra, dai. Quale? Quella divertente. No. La foca. Ho bisogno di un aiuto per canticchiare un riff. Un po' difficile da memorizzare, ma sono sicuro che ce la potete fare. Siete gente di... No, senza... Non applaudo, se no non si capisce. Scusa, è molto semplice. Seguitemi. Tuf, tutuf, tutuf, tutuf, tuf. Apprezzo la vostra discrezione, però se potete farlo un po' più... E invece la televisione cosa ti ha lasciato? Un'esperienza pesante in tutte le accezioni di questo aggettivo, cosa ti ha lasciato? Beh, mi ha lasciato, quello che mi ha lasciato, diciamo, è ancora un po' presto perché comunque lì è una specie di esplosione cose, incontrollabili anche per certi versi, e tutto quello che ti viene dentro, che ti rimane dentro, diciamo ci vuole il suo tempo per essere sviscerato ed avere una comprensione. Devo, come dire, leggere ancora tutte le carte. E così a questo punto ti potrei dire che comunque un po' mi ha cambiato leggermente rispetto a un certo modo di esercitare un certo controllo su me stesso. Forse mi ha fortificato, senz'altro mi sento più solido e in più mi ha messo al cospetto del pubblico in un modo più eclatante, ho più attenzione addosso, sia dei media che proprio della gente, e questa cosa sta lavorando nei miei confronti come una specie di esercizio a cui quotidianamente mi sottopongo, di relazione maggiore. Prima passavo più inosservato e ora devo un po' di più controllare, diciamo, ma è in senso positivo, perché comunque anche adesso che ti sto parlando parlo con una cognizione di causa diversa e capisco che magari quello che dico può avere un'attenzione maggiore, e quindi se faccio più attenzione, diciamo, a quello che dico, ma non nel senso che perdo di spontaneità, però sono più riflessivo e più attento. Era Rocco Papaleo, la voce in scena di oggi, era l'ultimo appuntamento per questa serie di incontri. Da Marta Cagnola, ancora l'augurio di una buona giornata.